Un caro saluto a tutti. Oggi è il 2 febbraio, è una bella festa liturgica. Ho visto che è riconosciuta e celebrata da tante persone. Allora vorrei anch'io spendere una parola per parlarne, soprattutto per la gente più giovane. Immagino che ci siano ancora anche alcuni ascoltatori sui adolescenti o giovani, ma anche i giovani adulti che non conoscono bene il significato di questa festa, che per la gente della mia età o anche un po' meno vecchia aveva e ha una grande importanza. Anzitutto ha due nomi. Viene chiamata, secondo i crismi, presentazione di Gesù al Tempio e purificazione di Maria Vergine. E di per sé è anche il quarto mistero gaudioso, Gesù presentato al Tempio e la purificazione di Maria Vergine. Io ho davanti agli occhi alcune belle immagini. Amici, l'arte aiuta la preghiera, per questo la Chiesa ha riempito, soprattutto anticamente, le chiese di mosaici, di dipinti, di affreschi. Conoscerli, apprezzarli, goderli è un aiuto alla fede. Il secondo nome con cui è conosciuta dal popolo è la candelora o ceriola, ma io dico con il linguaggio del nord, ecco, può darsi che al sud abbia anche, o in giro per il mondo, abbiano anche altre nomine. Si chiama candelora o ceriola perché nella tradizione passata c'erano delle processioni con le candele accese benedette. Non dimentichiamo che le funzioni venivano fatte soprattutto 6, 6 e mezza mattina, no? Perché poi la gente doveva andare in campagna, doveva andare in stabilimento, doveva andare a lavorare, doveva andare a casa a accudire la famiglia. E dunque al mattino, al 2 febbraio, era ancora buio. Allora si facevano queste processioni con le candele accese per ricordare Gesù che entra nel Tempio, Gesù bambino presentato da Maria e da Giuseppe. Perché entra nel Tempio? Perché 40 giorni, e sono passati se considerate da Natale 40 giorni, 40 giorni dopo la nascita, ogni famiglia doveva presentare al Tempio il figlio primogenito, a ricordo della grande vicenda in Egitto in cui Dio ha scampato i figli degli ebrei e ha invece tolto di mezzo i primogeniti degli egiziani. Ricorderete, no? Allora ogni primogenito sia di uomo sia di animale era consacrato a Dio e andava riscattato. Per questo in diversi dipinti trovate Maria che porta Gesù bambino al tempio e Giuseppe che la segue accanto con due tortore o due giovani colombe da offrire come riscatto, come scambio al Signore simbolico per questa creatura. E lì, oltre per le candele accese, questa è anche la festa della luce, perché il vecchio Simeone dice: finalmente i miei occhi hanno visto la luce delle genti, Gesù, luce delle genti. E si portava a casa una volta una candela benedetta. E la si teneva in casa appesa, io ricordo in casa mia, appesa in qualche parte, così alle pareti, meno bene veniva conservata nei cassettoni perché fosse come un po', diciamo, l'olivo benedetto che benedicesse. C'è ancora la tradizione di far benedire al sacerdote le candele, così, ecco. E anche la festa della Madonna, anzi una volta, era considerata soprattutto la festa della Madonna, perché anche la Madonna era tirata in ballo dal vecchio Simeone dicendo: "E a te, donna, una spada trafiggerà l'anima", ecco. E invece più opportunamente questa è la festa di Gesù, anche se la Madonna le sta accanto. Ecco. Dicevo che 40 giorni dopo la nascita, 40 è il numero biblico, no? Ogni figlio primogenito veniva portato al tempio, comunque offerto a Dio e riscattato. Questo è il significato della festa, credo di non aver tralasciato niente. Vorrei però aggiungere, come è mia tradizione, no, amici? Qualcuno lo dice un po' il pregio della mia predicazione, e io ritengo, insomma, se c'è qualche cosa che vale, anzitutto la spiegazione del mistero e poi l'attualizzazione. Io vorrei cercare di attualizzare questo anche per chi mi ascolta. Offriamo, presentiamo anche noi i nostri figli al Tempio, a Dio. Non importa che siano grandi, che siano passati 40 giorni o 40 anni, non importa che sia il primogenito o che sia il quinto della serie, non importa che siano nostri figli, o che siano nostri nipoti perché sono i figli dei nostri figli, o nipoti perché siamo delle zie. Offriamoli al Signore. Questo lo possiamo fare. Possiamo consacrarli al Signore idealmente e dire: Signore, io ti presento, ti offro, ti consacro questi figli. Magari loro lo fanno, non lo fanno, i loro genitori non sanno neanche, però noi possiamo offrirli. Ecco. Il consacrare qualcuno a Dio è un grande gesto. L'ideale sarebbe che ciascuno lo facesse per se stesso. Ma come noi offriamo a Dio preghiere per gli altri, possiamo offrire a Dio per gli altri una preghiera di consacrazione per loro. E tutti gli anni rinnovare questa offerta. Al 2 di febbraio, presentazione dei miei nipoti al Tempio e purificazione di Maria, chiedo che Maria li accolga sotto il suo celeste mantello e li protegga. Auguri, ciao.